Sì, muoveselo, muoveselo. Ok, allora ci sistemiamo un po'. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este momento. Voy a contar algo de mi hijo. Dai il microfono. Ok. Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Sono felice di stare qui con voi. Adesso vado a raccontare qualcosa di mio figlio. Prima di questo. Entonces, quando stava chiquito, mi hijo, pues siempre le ha gustado trabajar y así como cuando estaba en la primaria, pues ahí. Ahí empezó a trabajar, pues le enseñé a trabajar en el campo porque soy campesino. Cuando era piccolo, mio figlio sempre gli è piaciuto lavorare, sempre ha avuto il desiderio di lavorare, e quindi io gli ho insegnato il lavoro appunto che ci appartiene, che è quello del lavoro dei campi, del lavoro del campesino. Entonces ese momento cuando empezamos a trabajar en el campo le enseñé, porque tenemos un poco de chivos ahí también estuvo cuidando los chivos y hay veces que iba, a veces que no, porque son varios mis hijos. Hay días que iba a cuidar los chivos, cuando iba a la escuela no cuidaba los chivos, pues siempre iba en el campo conmigo. Appunto gli ho insegnato il lavoro nei campi, siccome noi, a parte altri figli che abbiamo e quindi che lavorano con noi nei campi, abbiamo anche appunto degli animali, una piccola parte degli animali e delle capre, gli ho insegnato appunto questo lavoro appunto di tenere gli animali nei campi. Entonces cuando estuve en la primaria, pues ahí iba a la escuela, pues ya en la tarde cuando salía, pues a veces iba yo a cortar café y se iba conmigo, pues ya casi no se oye. Sí. Entonces cuando salía de la escuela yo iba a cortar café y ahí se enseñó a cortar café. Già quando stava alle scuole elementari, appunto quando tornava da scuola, veniva con me nei campi, e quando era il momento di tagliare il caffè, appunto gli ho insegnato anche questo lavoro, quello appunto della coltivazione del caffè. Entonces ya cuando ese tiempo sí le gustó cortar café y siempre iba conmigo, pues ya hasta me preguntaba que si nos vamos a ir a cortar café, pues le digo que sí, pues y entonces ya cuando salía otra vez y así diario y diario hasta que terminó la primaria, entonces ya de ahí pues siguió y siempre le gusta en el campo y así le dije, pues enséñate a estudiar en la escuela, pues vas a la escuela y para que te enseñes a trabajar y también saber algo en el campo. Questa è stata la consuetudine per tutto questo tempo, appunto quello appunto di volere sempre apprendere, sempre imparare il lavoro nei campi, anche con il consiglio appunto di continuare la scuola, di continuare a studiare per imparare un lavoro e imparare anche questo lavoro, appunto questo lavoro del contadino, della coltivazione. Todo quando gli venne in aiuto los libres, ya cuando entró en la secundaria, ahí metí en la secundaria, pues ahí siguió también trabajando así, pues hay ratos que, bueno, hay rato, cuando los días que va a la escuela, pues en la tarde cuando salía, pues trabajaba y le ayudaba a su tía, a su tío, cualquier trabajo que hacía su tío, pues eso le ayudaba. E appunto sempre è proseguito così, continuando appunto a dare una mano anche non solo a me ma allo zio, alla zia, agli altri familiari appunto che lavoravano nel campo. Entonces quando salió la secundaria, pues y luego entró en bachillerato, ahí sí entró en una carpintería, ahí entró, ahí estuvo aprendiendo la carpintería y así hasta que los tres años ya, pues ya podía todo, hacía las puertas, ventanas y todo de la carpintería. Successivamente appunto ha continuato con questa voglia di imparare a lavorare, e entrando in una carpinteria nell'epoca del bachillerato. Il bachillerato in Messico è come se fosse, diciamo, la scuola di diploma, il liceo. Da lì appunto ha imparato il lavoro di carpinteria, ovvero di falegnameria, e in soli tre anni è riuscito appunto a imparare questo lavoro a livelli di poter fare qualsiasi cosa, qualsiasi mobile di una casa. Entonces ya cuando iba yo a ver y le preguntaba qué quería hacer o estudiar o qué quería, pues le dije, pues ese momento le digo, no, pues sabes que si vas estudiar, porque en el campo está muy trabajoso, ya sabes cómo soy, y cuando trabajo en el campo, pues vengo sucio y todo eso, o si no, corto las manos y todo eso, porque nosotros ocupamos, que le decimos garabato. Dopodiché, quindi, alle mie domande, appunto, se poteva proseguire a lavorare, se poteva continuare appunto a lavorare, rispose che sì, però che comunque è il lavoro del campo è duro e faticoso e... Perdón, questo garabato? È un gancio, per limpiar. Garabato, no. Un gancio per limpiar. Ah, vale, puoi ripetere, entonces. Una herramienta para limpiar il monte. Ah, vale. Come una falce, per pulire il campo, che pulisce il campo, leva l'erba e si può, in quel campo finalmente si può coltivare. Ok, scusate. Entonces, no, bueno, seguí con él, pues entonces dijo que no, porque va a estudiar, voy a estudiar en la normal de Ayotzinapa. Bueno, entonces si vas allá, porque ahí le gusta trabajar en el campo, y como ya la carpintería ya sabía, pues ya sabía de todo la carpintería. Hacía todo, mesa, hasta ventana, todo lo que hacía ahí, pues ya sabía todo eso. E quindi dopo appunto decise di continuare a studiare nella normale di Ayotzinapa, proprio anche per questa passione del campo e per la voglia di lavorare nel campo, perché dopo 3 anni di lavoro nell'apprendere appunto il lavoro di falegnameria già sapeva, comunque già era pratico appunto di questo lavoro, e decise di continuare a studiare la normale di Ayotzinapa. Bueno, entonces ahí siguió porque ahí, como ahí en normal de Ayotzinapa, pues ahí enseñan de todo en el campo y herrería, todos los trabajos que tienen ahí en la escuela, pues eso es lo que aprenden, pues le gustó entrar a esa escuela, por eso ahí entró. Da questo appunto viene la voglia, la decisione appunto di continuare a studiare la normale di Ayotzinapa, perché proprio lì si continuano a insegnare appunto le tecniche del lavoro nel campo, altri lavori come ad esempio il lavoro di fabbro. Pero como fueron a botear en la ciudad de Iguala, pues para ir en 2 de octubre en la Ciudad de México, pues ahí le tocó la desgracia de venida, pues ahí masacraron a los jóvenes, los desaparecieron los jóvenes normalistas. In questa situazione appunto purtroppo avvengono i fatti di Iguala del 26 di settembre, appunto, dove appunto si recano nella città di Iguala per appunto fare una colletta per questi soldi per partecipare alla manifestazione del 2 d'ottobre e il 2 d'ottobre degli studenti accettati in Messico, e da lì vengono attaccati brutalmente. Entonces ahí decía el gobierno mexicano que los jóvenes estaban muertos, y algunos fueron quemados ahí en el basurero de Cocula, los 43 estudiantes de normal de Ayotzinapa. E da lì appunto la storia prosegue con la versione del governo, nella quale appunto i 43 ragazzi sono stati uccisi e sono stati bruciati nel basurero, nella discarica di Cocula vicino a Iguala. Entonces ya cuando fueron los argentinos nos hicieron estudio y sacaron sangre, todo eso hicieron estudio para hacer el estudio si eran los jóvenes normalistas en las fosas alrededor de Iguala. Había fosas que ahí se encontraban muchas fosas, 28 fosas. E da lì appunto viene la collaborazione con questa truppa argentina di antropologia forense che appunto studia la versione del governo, studia sulla versione del governo per capire se in queste fosse, attorno a Iguala ci sono 28 fosse comuni, per capire se attorno a queste fosse ci siano veramente i corpi dei 43 ragazzi sequestrati. Entonces cuando regresaron los argentinos dijeron que no eran los jóvenes normalistas los que se encontraban ahí, sino que eran cuerpo de otras personas, y por eso el gobierno ya no creemos el gobierno ahorita. Da questa indagine esce fuori appunto attraverso la testimonianza di questa equipa argentina, esce fuori che i corpi che stanno in questo basurero di Cocula, bruciati nel basurero di Cocula, non appartengono ai 43 ragazzi, e per questo da lì nasce la nostra totale mancanza di fiducia nei confronti del governo messicano. Decía el gobierno que en el basurero de Cocula ahí se encontraban muchos huesos humanos, huesos de los jóvenes normal de Ayotzinapa, pero cuando hicieron estudios los argentinos, pues ahí dijeron que eran huesos de animales, huesos de res, huesos de pollo, muchos huesos ahí que se quemaron ahí, porque ahí iban a tirar todos los animales que muertos, por eso, y el gobierno decía que eran huesos de de estudiante normal de Ayotzinapa. Dentro questa discarica appunto si hanno ritrovato numerosi, cioè moltissime ossa completamente differenti. Appunto da questo studio esce fuori che queste ossa appartengono fondamentalmente ad animali, perché era una consuetudine buttare carcasse di animali all'interno della discarica, e quindi appartengono a loro e non agli studenti. Por eso en México no hay justicia para los pobres, para los campesinos, y como pasó en Aguas Blancas, el charco donde mató 17 campesinos en Aguas Blancas, y en el charco también mató 11 campesinos. Por eso pues ya no creemos el gobierno mexicano, porque siempre ha estado engañando. Questa è la consuetudine, e per questo appunto non abbiamo nessuna confidenza. Come è successo che le vittime sono sempre campesinos, le vittime sono sempre contadini, come è successo nel massacro di Aguas Blancas con 17 vittime o nel massacro del Charco con 11. El caso ya cerró de Ayotzinapa, y pues como que ya se cansó todo el Procuraduría General de Justicia, y por eso nosotros seguimos en pie de lucha, porque hasta encontrar los 43 estudiantes. La versione del governo appunto chiude totalmente il caso di Ayotzinapa, la PGR, il Procuratore Generale della Repubblica Messicano, chiude il caso, ma per noi la lotta non è finita e continuiamo appunto in questa lotta nella ricerca di verità e giustizia. Todos los padres y familia estamos reunidos juntos ahí en Ayotzinapa en espera de nuestros hijos, porque los 43 jóvenes que llevó el gobierno federal pues nos tiene que entregar. Y eso es lo que estamos exigiendo, que nos entregue vivo a nuestros hijos. Tutti noi familiari dei 43 ragazzi desaparecidos siamo lì aspettando il ritorno a casa dei nostri figli, e pretendiamo, esigiamo il ritorno a casa appunto dei ragazzi desaparecidos e la riconsegna, la reaparizione in vita dei ragazzi desaparecidos. Porque el gobierno quería que a fuerza que nos entregaba a 28 cuerpos los que se encontraban allá en un lado de Iguala, quería a fuerza que recibiéramos ese cuerpo, pero nosotros no aceptamos. Pues ya después, cuando llegaron los argentinos, dijeron que no eran los jóvenes normales de Ayotzinapa. La forzatura del governo è stata quella nel presentare forzatamente ai familiari 28 corpi trovati nel basolero, appunto questi 28 corpi assolutamente non appartenenti, dopo gli studi fatti da questa equipe argentina, non appartenenti ai ragazzi della normale. Por eso ahorita ya no creemos el gobierno mexicano, porque es muy mentiroso, muy siempre ha estado burlando a nosotros como padre de familia. Per questo motivo adesso non chiediamo più al governo messicano, perché è sempre stato bugiardo e dall'inizio ha mentito appunto alle richieste dei padri di famiglia. Pero en momento pues estamos en pie de lucha hasta encontrar a nuestros hijos, los 43 estudiantes de normal de Ayotzinapa. E da quel momento noi siamo in pie de lucha, appunto continuiamo la nostra lotta per ritrovare i nostri figli. Y 43 de Ayotzinapa. Muchas gracias. Gracias. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Allora andiamo avanti, adesso una compagna ci farà così una presentazione del compagno che sta qui, che si occupa di diritti umani in Guerrero, e farà un piccolo intervento. Abbiamo pensato di fare così tre piccoli interventi, di modo anche da non stressarli e riuscire però noi ad averli qua. Allora, ciao a tutti e tutte, vi presento questo compagno che accogliamo qui alla radio con molto piacere insieme agli altri due compagni che vengono dal Messico, da Ayotzinapa. Si chiama Roman, è un compagno che lavora e in questo caso accompagna e rappresenta un centro diritti umani che lavora nella zona di Guerrero da molti anni, accompagna le battaglie di molti popoli indigeni della regione e in questo caso sta accompagnando anche la battaglia e le richieste di giustizia per i 43 e più 3 di Ayotzinapa, insomma, per la questione di cui stiamo parlando. E questo compagno ha anche la veste ambivalente, è anche un compagno del nostro collettivo, del Nodo Solidale, e quindi anche della piattaforma Pirata, che da sempre, insomma, collabora con noi anche qui con la radio, con i notiziari che sporadicamente mandiamo, insomma, sulla situazione lì. Lavora con le radio da tanto tempo e gli cedo la parola. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Nos sentimos como en casa. Queremos aprovechar que nos han abierto los micrófonos para saludar a todo el pueblo rebelde de Roma y darle las gracias por estar apoyando esta demanda de presentación con vida de los 43 compañeros. Estos 43 compañeros de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por el Estado mexicano en septiembre de 2014. Grazie a tutti e a tutte per questo spazio che ci date in questa radio, che sento appunto come la mia casa. E approfittiamo dei microfoni per mandare un saluto ribelle a tutti i compagni che sono in lotta nella città di Roma e ringraziarli per l'appoggio che ci stanno dando nella lotta per verità e giustizia per la sparizione dei 43 compagni di Ayotzinapa il 26 settembre dell'anno scorso. Bueno, pues algo que hemos querido comentar durante este recorrido. Es un recorrido que vamos a hacer por 13 países de Europa. Hasta ahora hemos pasado por Oslo, Noruega, Gotemburgo, Suecia, Helsinki, Finlandia, Berlín, Alemania, Viena e Innsbruck en Austria, y ayer estuvimos en Milán y hoy en Roma. No sé si eso se tenga que traducir, pero vogliamo ricordare che se questa è parte di una carovana che attraversa 13 paesi, se me ne scordo qualcuno, scusate. Vabbè, insomma, ma poi si sono capiti, casomai, esatto, i paesi. Insomma, quelli si capiscono. Capiscono. Si capisce. Bueno, vamos a seguir después de Roma. Vamos a ir a Zurigo en Suiza. Vamos a estar en París, en Zaragoza, en Madrid, Barcelona, Marsella, Münster, otra vez Alemania. Después vamos a ir a Ámsterdam y Londres. Y lo que venimos a hacer es a decirles muchas gracias por esta lucha. Entérense, sepan, compañeros, compañeras, que en Ayotzinapa se sigue buscando a los 43 compañeros, que esta lucha, esta demanda es real, está más viva que nunca, y no vamos a detenernos hasta encontrar a los compañeros. Quello che vogliamo fare ancora una volta è ringraziare e ricordare che a Ayotzinapa si continuano a cercare questi 43 ragazzi e che questa lotta che stiamo facendo, perché li stiamo cercando vivi, è una lotta vera e viva, e che non ci fermeremo di fronte a niente. Hemos querido compartir con ustedes, con la sociedad civil de abajo, el sentido de urgencia que estamos viviendo actualmente en México, porque nos hemos dado cuenta, bueno, ha salido a nivel internacional algo que ya sabíamos desde tiempo atrás, es que en México no existen garantías para los derechos humanos, y que por el contrario, es el gobierno, el mismo Estado mexicano, quien se ha convertido en el mayor perpetrador de violaciones graves de derechos humanos en México. Vogliamo condividere ancora una volta con la gente, diciamo, che lotta dal basso per le proprie idee, l'urgenza della situazione che si vive in Messico. Diciamo che con questa desaparición dei 43 è uscito a livello internazionale quello che già si sapeva, ovvero che in Messico non c'è nessuna garanzia di rispetto dei diritti umani e che è evidente ormai agli occhi di tutti più di prima che la responsabilità di questo è la responsabilità dello Stato, del governo messicano. Y pues nos hemos enfrentado también a un cuestionamiento que nos hemos hecho, es cómo vamos a hacer cuando es el mismo gobierno quien desaparece a los estudiantes. Y hemos concientizado, hemos interiorizado que no se le pueden pedir garantías reales de no repetición a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos. Ci siamo quindi scontrati con una domanda su come facciamo quando è lo Stato stesso, il governo stesso, a far scomparire i nostri compagni e le nostre compagne, più in generale in Messico le persone. Abbiamo quindi capito e interiorizzato definitivamente che non possiamo chiedere ai diretti responsabili di questi orrori una risposta. O la garanzia che questo non riaccada. Almeno ancora la garanzia che questo non riaccada, insomma. Venimos a compartirles que en México está dándose un proceso de implementación de un Estado autoritario. Algo que ya veníamos padeciendo en México, pero que ahora ha sido mucho más evidente esta imposición de un Estado autoritario, porque ahora ya es algo que el mismo gobierno ha decidido hacer público. Por ejemplo, a través de la renuncia de parte del Estado mexicano al escrutinio o a la observación internacional en materia de derechos humanos. Se tarda mucho en escribir la traducción. Ah, sí. Muy bravo alumno. Vorremmo condividere anche il processo che vede in Messico un aumento dell'autoritarismo esponenziale. Già prima il Messico, insomma, non è mai stato uno stato non autoritario, però adesso vediamo che questa cosa non si può nascondere più, è stata addirittura già ammessa dal governo nel momento in cui ha accettato ha rifiutato la presenza degli organismi dei diritti umani in tutti i tipi di inchieste che, insomma, si svolgono. También venimos a alertarles de el incremento de la represión que existe en México y del riesgo de que en los próximos días o meses, incluso en los próximos minutos, mientras usted está escuchando esta entrevista, es probable que en México estén desapareciendo a más personas, las estén matando o las estén golpeando, las estén tratando con violencia por el simple hecho de exigir el respeto a sus derechos, y porque en México existen pueblos organizados que han dicho ya basta, que no van a permitir y no vamos a permitir más que nos sigan pisoteando. Necesitamos otra hoja para la traductora. Vogliamo ancora una volta chiamare l'attenzione, allertare sull'incremento della repressione in Messico. C'è il rischio concreto che nei prossimi tempi, nelle prossime ore, nei prossimi minuti, mentre adesso stiamo parlando qui alla radio, ci siano persone che in Messico stanno scomparendo, stanno essendo picchiate, stanno essendo uccise. per lottare per il, con la colpa di lottare per i loro diritti, perché in Messico sì, esistono popoli in resistenza, esistono popoli che non abbassano la testa e continuano a gridare che adesso basta. Y por eso venimos a hablar con usted que nos está escuchando ahí en su casa, frente a la computadora, en cualquier lado donde esté escuchando esta entrevista, sentado en el sillón aquí afuera de la cabina, que actúen en consecuencia en tanto pueblos, comunidades, sociedad civil informada, porque no podemos permitir que situaciones como las que se están viviendo en México ocurran o se repitan, mucho menos de manera impune. Tenemos que ser conciencia de que una desaparición forzada en México significa una desaparición forzada también aquí en Europa. Porque los 43 nos faltan a todos y a todas. Per questo ci dirigiamo a chi ci ascolta, dovunque ci ascolti, se a casa, davanti al computer, che sta ascoltando la radio in questo momento, che agiscano di conseguenza, che siano conseguenti, si dice in Messico, nel senso avere una coerenza fra quello che pensiamo e quello che facciamo. Questo essere conseguenti in Messico è un concetto interessante, perché non è esattamente la stessa cosa di, no, che si intende qui per conseguente. E quindi aggiungo questa parentesi, e quindi dobbiamo agire di conseguenza per non permettere mai più quello che è successo in Messico, perché non resti impune nessuna volta che succede una cosa del genere, perché è necessario fare coscienza e perché i 43 compagni che sono spariti in Messico sono 43 compagni che è come se fossero spariti qui. Un desaparecido messicano è un desaparecido nel mondo, diciamo, de tutti i compagni. Sí. Y entonces nosotros venimos aquí a ver que la lucha que ustedes tienen antifascista, la lucha que tienen por los derechos de los migrantes, la lucha que tienen contra los trenes de alta velocidad o contra el gentrification o las ocupas, también es una, está dirigida a atacar las mismas causas que han provocado la desaparición forzada de nuestros compañeros. Entonces, si ustedes siguen luchando con fuerza aquí, significa que también están luchando por Ayotzinapa y por la presentación con vida de los 43 compañeros y justicia por los que fueron asesinados. Anche qui tutte le lotte che si fanno, la lotta antifascista, la lotta per i diritti dei migranti, la lotta contro il TAV, la lotta contro la gentrificazione nelle città, le occupazioni di casa come quelle sociali, sono dirette ad attaccare le stesse cause per cui lottavano i compagni, le stesse cause che hanno fatto sparire i compagni. E quindi noi siamo convinti che se anche qui, anche continuando a lottare qui, si sta lottando anche in appoggio, cioè, no? In appoggio ai compagni di Ayotzinapa e del Messico in generale, per la riapparizione con vita dei 43 compagni che ci hanno portato via. Y solo eso, para concluir, pues darle las gracias, compañeros y compañeras, porque sabemos que han estado luchando junto a nosotros y sabemos que han decidido asumir como propio el dolor de las 43 familias, pero también han decidido asumir como propia la digna rabia para organizarnos y darnos cuenta que tanto en México como en Europa es necesario que sigamos luchando juntos para transformar de raíz este sistema que se ha construido sobre el desprecio, sobre la explotación, sobre la represión y sobre el despojo de los poderosos sobre los pueblos. Per concludere, un grazie a tutti voi compagni, perché compagni e compagne, perché sappiamo che avete lottato al nostro fianco, che avete assunto il dolore ma anche la degna rabbia che lì in Messico abbiamo sentito per la questione Ayotzinapa. rabbia che deve alimentare, organizzare, continuare a stimolarci, organizzare le lotte insieme per trasformare questo sistema di sfruttamento, di disprezzo, di repressione e despoco, è difficile da tradurre. Disprobri, diciamo di espropriazione che viviamo in Messico come qui. Perché siamo ribelli, siamo il popolo. Grande. Perché siamo ribelli, siamo il popolo. Grazie mille. Yo, yes, yo, yes, de la madre, de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos que se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beater. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beater. No me digas beater, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Allora, in conclusione andiamo a fare il terzo intervento per questa breve trasmissione, così poi ci vedremo tutti a cena al Cinodromo, che saprete che sarà un momento in cui veramente però bisogna rilassarsi, farli respirare, lasciare un momento prima che domani ripartano e continuino la loro carovana. Va bene, io vi presento allora Omar, che è un compagno della normale rurale degli Ossinapa, uno studente che è sopravvissuto all'attacco della notte del 26 e della giornata del 27, e gli lascio la parola. Buenas tardes, mi nombre es Omar García, soy sobreviviente del 26 de septiembre. Simplemente transmitirles que lo único que estamos haciendo es buscar a nuestros compañeros y ayudando a 43 familias a recuperar a sus hijos. Mi chiamo Omar García, sono un sopravvissuto di Ayotzinapa. Ricordo che quello che facciamo è cercare di aiutare le 43 famiglie degli studenti scomparsi. Todo lo que hemos hecho a partir del 26 de septiembre ha sido una lucha legal, una lucha pacífica por encontrar a nuestros compañeros y porque en México se respeten los derechos humanos. Quello che abbiamo fatto dal 26 settembre in poi è una lotta legale e pacifica per trovare i nostri compagni e perché in Messico si rispettino i diritti umani. Nuestros 43 compañeros pasan a formar parte de esos 23.000 desaparecidos, de esos 150.000 asesinados que no ven la justicia, que no ven la verdad, las causas por las que han muerto y desaparecido. I 43 compagni scomparsi sono entrati a far parte della fila dei 23.000 scomparsi in Messico e dei 150.000 assassinati negli ultimi anni. Para nosotros no es fácil venir al exterior, incluso para nosotros no es fácil la lucha dentro del nuestro país. Non è facile andare all'estero e non è facile la lotta nel nostro paese. Nos hemos enfrentado a las críticas de parte de los medios de comunicación en México, que lo único que han hecho es degradar, desprestigiar nuestra lucha. Ci siamo scontrati con le critiche, soprattutto in Messico, dei media mainstream, che non hanno fatto altro che cercare di infamarci e di crearci un clima ostile intorno. Nos hemos enfrentado a líderes de opinión que moldean la opinión pública en México, buscando nuestra resignación, aceptar que nuestros compañeros han sido muertos. Ci siamo scontrati con diversi leader e opinionisti messicani che volevano evitare che ci scontrassimo con la realtà della battaglia per i nostri morti. Nos hemos enfrentado también a la indiferencia de las personas que, a pesar de que saben que estas cosas sí pasan en diversos lugares del mundo, prefieren cerrar los ojos. Ci siamo scontrati soprattutto con l'indifferenza delle persone che, nonostante sappiano che queste cose succedono in molte parti del mondo, hanno preferito chiudere gli occhi. Nos hemos enfrentado también a un movimiento social y de izquierda en México que lo único que hace es colgarse de nuestro movimiento. Ci siamo scontrati con un movimento sociale di sinistra messicano che è l'unico che con una parte che l'unica cosa che voleva fare era attaccarsi al nostro carrozzone, diciamo così. Entendemos que esta lucha es por la vida, por nuestros compañeros, detrás de los cuales hay miles, y no puede ser que vivamos en una sociedad que se disgrega gracias a los líderes de opinión del gobierno. Questa che noi facciamo è una lotta per la vita, per i nostri compagni, e non possiamo accettare che ci siano per i nostri compagni che rappresentano altri mille e mille compagni, non possiamo accettare che ci siano dei leader di opinione che modellano, diciamo, il giudizio della gente, no? Che hanno questo potere grande rispetto al giudizio della gente. La gente in Europa deve entender que nosotros como sobrevivientes, los padres de familia, queremos a nuestros compañeros de vuelta a costa de lo que sea, y que vamos a seguir tocando puertas en todas partes, levantando cualquier piedra con el fin único de encontrarlos. Qui in Europa vogliamo far capire che come familiari e sopravvissuti continueremo a lottare e continueremo a toccare porte e a muovere qualsiasi pietra perché li vogliamo trovare vivi. Es fácil hablar de una lucha porque la vemos desde fuera. Es fácil si ustedes las ven a miles de kilómetros. Es fácil ver a 43 familias que buscan desesperadamente a sus hijos delante de un refrigerador lleno de comida. È facile parlare di qualcosa così lontano, è facile pensare a questi 43 scomparsi e alle loro famiglie davanti a un frigorifero pieno di cibo. Pero deben entender que para las 43 familias, sus hijos, que finalmente habían llegado a la escuela, eran la esperanza para sostenerse económicamente y para luchar por un futuro mejor. Ma le 43 famiglie che hanno perso i loro figli, dovete capire bene che era il grande traguardo quello di essere riusciti a mandarli a scuola per poter sostenere le famiglie e per sperare di poter cambiare lo stato di cose presenti. La vita non è facile in México e nosotros vemos las lágrimas en los padres de familia, la desesperación, la vivimos también nosotros, porque queremos estar en el lugar de nuestros compañeros. Somos capaces de decir, mejor yo hubiera sido el desaparecido y no ellos. La vida no es fácil en México, no es fácil en México. A noi ci viene da piangere quando pensiamo a quei 44. Non possiamo smettere di dire che avremmo preferito essere noi al posto loro. Si hay gente en este continente que no le han arrancado el corazón, que no tiene ojos artificiales para ver las cosas, escuchen nuestro mensaje. Nuestro mensaje es claro: ayúdennos a encontrar a nuestros 43 compañeros. Se c'è qualcuno da questa parte dell'oceano a cui non hanno strappato gli occhi o il cuore, ascoltate il nostro messaggio, che aiutateci a trovare i nostri 43 compagni scomparsi. En verdad eso es lo único que venimos a pedir. Si ven lo que nosotros vemos, si escuchan lo que nosotros escuchamos, si quieren lo que nosotros queremos, que es hacer del mundo un lugar mejor para vivir, ayúdennos. Nosotros estamos dispuestos también a ayudar las diferentes luchas. Muchas gracias. è questo il messaggio che vogliamo dirvi: se vedete quello che vediamo noi, se ascoltate quello che ascoltiamo noi, se volete quello che vogliamo noi, ovvero un mondo trasformato in un posto migliore, allora stiamo facendo la stessa lotta. E un saluto a tutti. Va bene, io disarmata non so veramente come poter ringraziarli per questa ennesima fatica, perché comunque lo fanno col sorriso, ma è un'ennesima fatica che abbiamo voluti portare qui per forza. Allora adesso noi invece andiamo a farli riposare un po', li porteremo a cena e non voglio aggiungere altro perché continuino a risuonarvi queste parole nelle orecchie. Ciao. Io busco libertà con nombre e appellido come una caiva libera.